Il sabato del villaggio. Terza ora del sabato del villaggio, è il momento di lanciare subito Radio Tube. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, rieccoci insieme. È la terza ora del sabato del villaggio ed è arrivato Daniele Bellasio. E siamo qua tutti. E allora, et di Bellasio, et Marta Cagnola, a cancelletto Radio Tube, cancelletto ISDV. Siamo carichi? Siamo carichi, abbiamo un sacco di video molto belli, carichi. Ma questo, per esempio, l'hai visto? Tra poco lo riesci a vedere alla radio, allora, perché è bellissimo. Cristian Goldoni, dalla regia, giustamente ci ha detto: fa ridere solo il titolo. Quindi noi possiamo anche mandare, invece che il video, solo il titolo. Allora, il titolo io allora, Rissa. La famosa calma zen dei monaci, scrive la stampa.tv, botte da orbi di fronte al tempio. Cioè praticamente tra monaci buddisti. Cioè, è come cuoco vegano sorpreso da McDonald's. Certo, oppure certo. Indigestione di cuoco vegano da McDonald's. Esatto. Cioè, ma com'è possibile che non si sa no, per cosa... No, ma mostriamola alla radio, mostriamola alla radio. No, mostramelo qua. No, ma guarda, cioè, se li danno proprio... C'è uno che si denuda un certo... No, uno ce che n'è uno che proprio dà dei colpi fammi pazzeschi. Guarda, ti passo il tablet. Ce n'è uno a un certo punto che dà delle manate in testa a un altro. Quelli che... Quello che mena di più è arancione. Poi ci sono quelli che menano poco, che è un marroncino chiaro. Poi ci sono i paceri, che è grigio, i monaci, che è quello grigio zen. Il monaco zen si è vestito grigio di vino. Beh, perché noi calmi. Sì, voi? Noi calmi, sì, quando ci gira la monaca di Monza, sì, come zen. Quella volta che hai tirato il telefonino contro di te. Sì, perché non arrivava però... la diretta. Non sì. Contro, per fortuna. No, perché è solo perché ho una pessima mira che non ti ho preso. Noi calmi, quando calmi. Ci arrabbiamo No, vabbè. No, ne parliamo, no. Allora, dunque, tu hai scoperto una cosa allora, molto carina. Allora, io è da ieri che sì, rido come una pazza per un non video, per secondo me, molto, molto, molto carino, sì. Che ha lanciato la pagina Radio Speaker. Andate tanto a vederlo, perché per ora non ha tantissime visualizzazioni, ma noi vogliamo lanciarlo. Com'è? Sì, è da ieri che lo lancio su Twitter. Il tema è perché tutti i giornalisti, conduttori delle radio si stanno divertendo moltissimo a condividerlo, a mandarselo uno con l'altro, perché parla di tutti i network nazionali e così adesso privati. Ne approfittiamo un po' anche per salutare, anche perché tutti abbiamo colleghi che lavorano di qua o di là, a volte ci facciamo i ciao. Tu io no. No. Mamma io presentami qualcuno di qualche altra radio. Ma come sei? Mamma mia, tu ma io no. Frequenti solo... Vabbè. No, io mi mando sempre i saluti, ma noi ci facciamo i saluti da trasmissione a trasmissione. Tipo? Fanne uno. Ma tipo, guarda, in queste settimane mi hanno salutato i Vitiello da DJ e mi hanno salutato Paoletta e Patrick da Radio Italia. Io posso uno? Daniele Bossari. A te piace Daniele Bossari? Anche se è milanista? Io è milanista, no? Sì, mi pare, presenta sì, anche sì. Allo stadio, intanto lo vedo, lo saluto, perché così, lo saluto, lo conosco, lo saluto. Allora, c'è questo ragazzo che si chiama Mattes, che sì. Io, confesso, non conoscevo, però è veramente bravo, fa questi video così, nei quali interpreta surreali. Un po' la realtà. Sì. Ha messo in scena come guidano sì. Gli ascoltatori delle varie radio, cioè stanno guidando, hanno la radio di in sottofondo. E come guidano? Come guidano? Ad esempio, chi? Andiamo a fare un saluto a Napoli. Come guidano gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss? Così. Come guidano? Allora, ma non vogliamo questa macchina? San Gennaro. Beh, carino. Ci dovete vederlo, soprattutto dovete vederlo. Dovete vederlo. Come guiderà mai l'ascoltatore tipo di RTL 102.5? La radio più generale. Com'è? Si può dire? Generalista. Non diamo delle. Ha una passione per i numeri questa radio. Sentiamolo. Sei su RTL 102.5. Vuoi sapere a quanti ascoltatori siamo arrivati? Sì. Sicuro? Sì, dai. Bene. Siamo ascoltati da oltre 7 miliardi e 563 milioni di persone. Ma come 7 miliardi? Carino, carino, anche però io dopo, un sacco di amici. Ciao Andrea, ciao Andrea Conti. Ciao Andrea, ciao Andrea, sì, Conti. Poi... Ma qua siamo proprio all'utilizzo privato di mezzo pubblico. Ma noi ci conosciamo tutti, perché poi sembra sempre che... No, perché a differenza di quello che succede in TV, sono tutti cattivi. Io adesso dirai sta roba retorica che invece quelli della radio si amano tutti. È vero. Ma figurati. È vero, ma no, ci vogliamo bene. Ci vogliamo bene, ci vogliamo benissimo. Ma non ci credo neanche se vi vedo abbracciati condurre assieme una trasmissione in Italia, come tutta Italia. A radio unificata. Ma non ci credo. Invece sì. Invece in televisione si continua un po' a litigare. Per esempio. Sì, non è che è una lite tra televisivi, è. Caso strano, una lite tra un politico, no, non succede mai. Una lite tra un Matteo, non succede mai. Un Matteo che se la prende con una trasmissione televisiva. Quale? Ma pensa che cosa strana. Il Matteo, quello, come lo possiamo dire, quello con la felpa. Esatto, con quale Matteo cominciamo? Quello con la felpa. Tutti e due hanno partecipato a trasmissioni televisive, sì. Ma tutti e due ogni tanto ce l'hanno con la televisione. Per esempio, Matteo Salvini se l'è presa con... Chi l'ha visto? La Sciarelli. Sentiamo come ha commentato Federica Sciarelli questa uscita di Matteo Salvini. Tutto questo con denaro pubblico, una vergogna, con il punto esclamativo. Allora, noi in realtà siamo pagati interamente dalla pubblicità, nel senso che il rapporto è 4-6, cioè noi costiamo 4 e la pubblicità è 6, quindi non solo siamo pagati interamente dalla pubblicità, quindi facciamo un servizio pubblico grazie agli imprenditori che investono con la loro pubblicità, ma addirittura facciamo entrare dei soldi nelle casse della RAI. Quindi tutto questo con denaro pubblico, a noi non lo può dire, una vergogna se lo può tenere perché si era riferito a questo. Tra l'altro lui questa cosa della vergogna l'aveva scritta su Twitter, su chi l'ha visto, su Rai 3, processo in corso ai carabinieri, tutto questo con denaro pubblico, una vergogna, hashtag Salvini. Sì, però Matteo Salvini ha tentato di... No, alla fine ha detto, tutto sommato, io sono un fan di chi l'ha visto. Bella questa, mi è piaciuta. È una trasmissione tra le più viste. Quanti anni ha? 90 anni? Cioè da sempre, no? La prima conduzione è Nunzio Filogamo, come si chiamava? Sentiamo Matteo Salvini. Ma io guardo chi l'ha visto da quando ho 15 anni, quindi sono appassionatissimo. Mi fa incazzare che ci siano processi sommari alle forze dell'ordine in un programma che dovrebbe occuparsi di scomparsi. Processo non è la Sciarelli. Ma no, viva la lunga vita a chi l'ha visto. Vedi, lunga vita a chi ma l'ha visto, sì, che aspetta, sportivo. Sto cercando. Sì. È andato in onda la prima volta nel 1989. Neanche poi così longevo, 89. Allora, cioè Matteo Salvini già partecipava a doppio slalom. Esatto, 28 edizioni, sì. 1085 puntate, quasi come RadioTube, uguale. Pensa a noi due che facciamo 28 edizioni di RadioTube. No, 28 edizioni, 24. Noi a 24 per Radio 24 dobbiamo fermarci. Ne facciamo 24. Sei pronta? Ne mancano 21 di anni. 21 perché... anni. Goldoni avrà la barba lunghissima. No, io non avrò neanche più un capello. Con la busta arancione scopriamo quando andiamo in pensione. Mai. Cristian Goldoni che è dell'80, mai. 95, no, non sarà dell'80. 3! 83, capito. Proprio va in pensione che deve lavorare. Vabbè, tantissimo. Dai. Tu l'hai ricevuta la busta arancione? No, ne parlano tutti. No, ma noi la riceviamo? Non lo so. Dobbiamo lo so. Chiederlo a Mauro Meazza, lui sicuramente lo saprebbe. Collega del Sole 24 Ore, che ne sa. La radio lo conosce. Che ne gli sa. Ascoltatori della radio lo conoscono. Come no, la mattina come lo sentono sempre. L'ascoltatore medio di Milan mentre guida. Non lo so. Mani sul volante. Lo stavo dicendo io. Sicuramente le mani sul volante. E a proposito di come guidate, È il momento del traffico. Che bravo Daniele Bellasio. Tra poco. Radio Tube. Torniamo insieme dopo aver parlato un po' di cosa? Televisione, sì. Programmi di approfondimento, dai, diciamolo. È un periodo bello vivace quando si parla di talk show. Ne abbiamo già parlato a Radio Tube. Ma il talk show praticamente non esiste più perché adesso sai che c'è un politico, possiamo nominarlo perché non è candidato sindaco, anche se è stato sindaco. Sì. Che ha deciso che niente, lui praticamente Matteo risponde alla rete, no? E non è Grillo? No, non è Grillo. Non è Grillo? No, per certi versi ormai, praticamente, sulla rete c'è Matteo e nei talk show ci sono i grillini. È un po' che non dovevano andare in TV, sono andati in TV. Invece Matteo, che disintermedia, dicono quelli colti, lui risponde, Matteo Renzi ovviamente, risponde, Matteo risponde. Noi non volevamo parlarne perché ne aveva fatto uno un po' di giorni fa. Abbiamo detto, tanto non ne fai. Ne ha fatto un altro, sì, e quindi sì, dobbiamo parlarne. Sì, sì. Quindi mi è arrivata una mail di Daniele Bellasio con il l'ha subject rifatto. L'ha rifatto. Che sembrava un peccato una cosa, invece era Matteo risponde. Ma dai, mostriamolo un pezzettino. Poi ne parliamo radio. Però con un'esperta. Eh sì. Buongiorno a tutti, bentornati al Matteo risponde. Dalle 15 alle 16 siamo leggermente in ritardo, ma non troppo rispetto al solito. È come Riccardo Luna, quindi facciamo la parte opposta. Di solito tu sei il giornalista, io faccio il presentatore. Come funziona Matteo risponde? Un'ora di trasmissione, che non si deve chiamare trasmissione se non si arrabbia, non fu per Filippo Sensi. Questa ora di collegamento è un'ora in cui noi ci dedichiamo del tempo per rispondere a alcune questioni. Allora, intanto impazzisco perché Renzi, che chiama Filippo Sensi Nonfup, cioè col suo nickname, nonché account di Twitter, è fantastico. Sì, ormai cioè, perché è noi lo chiamiamo Nonfup perché lo conosciamo dai tempi della rete e attraverso la rete, quindi per noi è Nonfup, ma il fatto che lo chiami lui Nonfup mi fa impazzire. Allora, nei giorni in cui torna il Maurizio Costanzo Show, abbiamo lanciato il Matteo Renzi Show. Manca solo Bracardi lui, sotto. Lui si lancia da solo. Sì. Con noi, si manca solo Bracardi che ogni tanto... Riccardo Luna che suona con qualche... Vabbè, quindi non servono più i talk show, non servono Matteo più i giornalisti, è finito tutto. Chiudiamo no? tutto. Ciao, chiudiamo tutto. Quindi a Omnibus, per esempio, sì. Solo chi invitiamo? Giornalisti, sportivi? Non lo so. Non lo so, chiediamolo a un'esperta della quale noi siamo pazzi. Sì. Secondo me gli ascoltatori sentono dalla mia voce che io la... Pazzi. Ma siamo tutti pazzi di lei. Abbiamo al telefono la numero uno, Alessandra Sardoni. Ciao Alessandra! Ciao, troppo buono. Finito, no? Sono. Finito tutti. Basta, tiriamo giù la Claire. Finito tutto. Matteo risponde alla rete e noi ce ne andiamo. È così, Alessandra? Beh, forse lui vorrebbe che fosse così, questo è un po' insomma anche lo spirito, no? Lo dicevate, la disintermediazione è la ratio che c'è dietro a questa scelta, a questa modalità di comunicazione che sta intensificando, perché ha annunciato che la farà una volta alla settimana. E naturalmente una disintermediazione però è anche una selezione, perché la selezione è dei vari tweet ai quali rispondere, naturalmente sta tutta a lui, forse un po' anche a Nonfup, cioè a Filippo Sensi. Ma la cosa che diverte, diciamo così, perché fa un po' di nemesi secondo me, è che Matteo Renzi, che non ha mai nascosto il suo disprezzo per i talk show, però si sta rivelando in questa formula del Matteo risponde molto conduttore televisivo, perché intanto ha introdotto la formula dell'ospite. Allora c'è un malcapitato di turno che viene trascinato, c'è stato Riccardo Luna, ma anche il sottosegretario consigliere economico Nannicini, che è stato preso e portato lì per rispondere in diretta, e anche, l'abbiamo visto, molto conduttore e molto spalla Renzi con Vincenzo De Luca. Si vedeva che Renzi voleva che De Luca facesse De Luca, il De Luca anche un po' di crosta, lo dico così per spirito d'azienda naturalmente. Certo. A proposito di spirito d'azienda, Alessandra, il tuo direttore Enrico Mentana non ha avuto parole tenerissime con Matteo Renzi e le abbiamo ascoltate qualche puntata fa. Ma che cattivella, no, che sei. No, beh, non sono cattivella, insomma, lui è stato molto chiaro, è stato chiaro, però in un certo senso ha detto io sono più grande di te. Sì, più vecchio ho 20 anni più di te, insomma, non si deve te la prendere sempre con i talk show che hanno la anche TV dei meriti. Informa, esatto, la TV ha dei meriti, quindi c'è il ruolo, sì. Diciamo che io sono stata abbastanza d'accordo con Mentana, perché è stato strano, io ero presente in studio mentre si è generata tutta questa questione. E in effetti era stato un po' eccessivo da parte del Presidente del Consiglio intervenire in quel modo, cioè dentro quell'intervento che era comunque un intervento nel quale sottolineava una vittoria politica che aveva avuto al referendum sulle trivelle, e quindi stava, diciamo, illustrando il suo punto di vista, tanto più che era, diciamo, in qualche modo un talk, in realtà era un approfondimento, uno speciale, quello di Mentana, che lo stava mandando senza tagli, senza niente, in diretta. E lo stesso Mentana aveva fatto, e noi anche a Omnibus avevamo fatto tante puntate su questi argomenti di informazione, insomma, che ovviamente cercava di essere corretta e di dare spazio a tutti. Quindi era una sottolineatura, insomma, un po' sì, strana, anche perché poi era, diciamo, un evento quasi istituzionale, parlava in una ma Alessandra, volendo un po' interpretare quale può essere la ragione di questa sfiducia da parte di Renzi nei confronti del talk show, c'è chi dice che l'invasione o comunque l'arrivo del Movimento 5 Stelle abbastanza in massa potrebbe essere che Renzi è come dire subliminalmente stia dicendo vabbè, ma insomma i talk show sono diventati un po' troppo tutti grillini. Ma io sinceramente non credo che sia questo, in questo caso non sono tanto d'accordo, perché in realtà il fastidio di Renzi per i talk show c'è dall'inizio, cioè da tanto tempo fa, ricordo forse la prima volta, il primo tweet contro Piazza Pulita, che poi ci fecero anche un servizio proprio Piazza Pulita su questa cosa, immaginando Renzi che correva, si allenava, intanto guardava la mattina i talk. Quindi sì, è un fastidio. Poi se l'è presa anche con Massimo Giannini, Rambo. Con Massimo Giannini. Allora lo metto insieme invece a un altro filone che non è neanche soltanto italiano e non è soltanto di Renzi, ovvero c'è anche una letteratura su questo. È il fatto che, diciamo così, vengono accusate le trasmissioni di infotainment, cioè di informazione e intrattenimento, e anche i talk di informazione, di avere un atteggiamento, diciamo, che mina la fiducia nel governo, nel senso, siccome tu devi fare necessariamente avere un ruolo dialettico, antagonistico, e quindi cerchi di smontare le promesse elettorali di una campagna elettorale permanente, che è la tendenza di comunicazione che è di tutti i leader, non soltanto italiani, e di tutti i leader di governo oggi nella politica moderna, i talk, comunque il tipo di trasmissione che va a smontare, cerca di farlo anche come suo, diciamo, DNA, di fare questa operazione, dà fastidio. Mm-hmm. Che fatica per voi giornalisti che vi occupate di politica con questa campagna elettorale permanente. Che fatica, ma anche divertimento. Cioè, è sempre materiale. Allora, per esempio? Per esempio, abbiamo parlato a lungo di Renzi, abbiamo citato Grillo e Grillini en passant. Berlusconi. È tornato anche Silvio. Certo, è tornato Silvio. Mostriamo un pezzettino di quello che ha detto questa settimana. Qualcuno ipotizza addirittura che questo sia un ritorno al patto del Nazareno. Questo è una stupidaggine assoluta. Io credo che noi continuiamo a sottolineare come il governo attuale sia il terzo governo non eletto, sia un governo tenuto in piedi da 60 senatori che erano stati eletti dal centrodestra e che hanno tradito il mandato elettorale, e quindi sia un governo abusivo e anche illegittimo contro la volontà popolare. Allora, diciamo che era ospite da Maurizio Belpietro. Sì, perché è stato accusato di aver rivitalizzato il patto del Nazareno con le sue ultime scelte, e per la cronaca una delle ultime scelte è quella di appoggiare a Roma Marchini. Però stiamo attenti, perché poi no, però è la cronaca, è la cronaca, sì, bisogna dirla. Ma sai, quindi, che io paura, allora lui ha risposto che... questa. E allora noi lo chiediamo sempre ad Alessandra. Nostro faro nella notte, sta Alessandra. Sta tornando il clima del Nazareno? Io non lo so se è così, credo che risponda questa scelta di Berlusconi ad altre ragioni, soprattutto a un fatto di rapporto con l'altra destra, e mi aspetto che Berlusconi adesso, ma poi anche lo spezzone che avete fatto sentire voi, un Berlusconi che cercherà invece di essere un po' più di attacco. Sì. Quindi francamente non vedo il Nazareno in quel senso, poi che possano esserci diciamo una parte degli interessi delle aziende di Berlusconi che hanno bisogno di rapporti buoni con il governo, quello vale per tutte le aziende, per tutti gli imprenditori, però mi sembra nella normalità di questi rapporti. Alessandra, ma tu l'hai sentito Daniele Bellasio quando ha litigato all'Aria che tira? Lo sentivi urlare Eria alla 7 quella mattina lì, che urlava me come lo un matto? Sono perso, me no, lo non sono ti perso. Sei perso, amore. È gravissimo. Non ti sei perso, sì, amore. Sì, ha fatto la rissa proprio all'Aria che tira. Figurati, no, con Emiliano cosa... che è il triplo di me. Daniele, non ti so immaginare. No, nella no, no. Scusa, saluta. Daniele Bellasio, no, per no, la parola no, troll. No, cosa no, di cui sono felice? No, no, no, no. Ho posto una domanda. Arrabbiatissimo. E mi ha dato del troll. Vabbè, vabbè, vabbè.

adatto alle mie esigenze, per cui non sono mai rimasto indietro, e oggi con le telecamerine sui caschi, con quello che è la tecnologia che ti può permettere di vivere di più determinati momenti o determinati eventi o determinate situazioni, sarebbe anche abbastanza divertente rifare dei giochi di coinvolgimento più o meno popolare. Ma non solo, ci sono altre cose che si possono fare. Oggi le televisioni sono in grande difficoltà, a parte la mia grande passione che mi è rimasta dentro, che mi resta dentro, della radio, perché ho fatto 10 anni di Radio Monte Carlo. Fantastico, vero? La radio è il grande amore della mia vita, cioè è sempre rimasto dentro. Comunque, se ti serve poi una conduttrice, qua ne abbiamo una che è brava. siamo pronti. Noi. Tutti e due siete bravi, poi una lombarda e l'altro mezzo piemontese. Ho sentito nel cappello che è di estrazione più o meno piemontese, io sono la perfetta essenza di tutto questo, di tutto questo, perché io sono milanese puro sangue, vivo nel Monferrato, quindi vi raccolgo un po' tutti e due. Qual era la domanda? No, Cecina. Vogliamo anche sapere di Cecina. No, la domanda punto. È Cecina. Ci hai lasciato punto. La curiosità, cosa farai a Cecina? Ma Cecina ogni tanto mi chiamano perché hanno scoperto che d'estate la gente ha voglia di partecipare a manifestazioni che non sia il solito cantante o il solito comico. Vogliono partecipare e vogliono cercare di far partecipare quanta più gente possibile. Mi ha chiamato Cecina in Toscana e mi ha chiesto se voglio, in un posto stupendo che è un acqua village, un park village, con una scenografia, una location che è proprio da Giochi senza frontiere, se me la sento di organizzare degli eventi di giochi a cui far partecipare i comuni dell'Etruria. Beh, fantastico! È una cosa che mi spaventa abbastanza, io so quant'è di faticoso sul piano fisico, però non ho resistito, ho detto di sì. Poi la Toscana. Cui... Bello, mi piace. Chissà, magari ci andiamo. Beh, andiamo a fare un giro. Andiamo. Grazie Ettore, che meraviglia. Da metà luglio a fine luglio. Comunque, perché poi questi qui hanno anche delle ambizioni. Da lì scontrarsi, poi che loro sono Tirreno, scontrarsi con quelli dell'Adriatico, perché per esempio in Croazia c'è un ragazzino fanatico che organizza i giochi dell'Adriatico che vengono ripresi dalla televisione pubblica croata. E da lì si riparte, vedi? Se fai Croazia, perché se fai Adriatico contro Tirreno e poi diventa un Mediterraneo in gioco e vai che vai. Mi piace, si riparte. Ricominciamo. Ciao. Grazie Ettore Andenna, presto. Un abbraccione a tutti, ciao. Grazie. La radio è meravigliosa. Ah. Vieni a trovarci, ciao Ettore. Ciao. A proposito di radio meravigliosa, per esempio, quelli di radio. Di Radio DJ, allora. No, quelli che... ma Radio DJ è famosissima. Io come adoro. Non possiamo parlare delle altre radio? Allora, torniamo indietro. Siccome non hanno sentito gli ascoltatori quello che è successo nel primo blocco, perché magari sono saliti. Non ci seguono fin dall'inizio? Allora, intanto diciamo che se non ci aveste seguiti fin dall'inizio, Daniele Bellasio si arrabbia e dopo va come in televisione che urla. Seguiteci dall'inizio. Se proprio magari siete saliti in macchina dopo, avete acceso la radio, dopo c'è il podcast. Sì. Ma intanto ricapitoliamo. Abbiamo scoperto ieri un ragazzo che ha postato, grazie a radiospeaker.it, che è un sito che racconta un po' le novità della radio, questo ragazzo che si chiama Mattes, che ha impersonato gli ascoltatori di tutte le radio italiane quando guidano. E noi così in questo modo salutiamo anche un po' amichevolmente tutte le radio. L'ascoltatore di Radio DJ secondo me corre, fa la maratona mentre ascolta. No, perché deve guidare. No, cosa fa? Sentiamo. No. Sentiamo l'ascoltatore di Radio DJ cosa fa. Siamo matti comunque. Dai figa, ma muovi questo Fiat Doblò, ma che fai, ci consegni ancora i gelati? E ma Linus si arrabbia. Ma no, Linus è uno sportivo. È un po' milanese secondo questa ragazza. Io pensavo lì con il tutino a correre, vero, lì corrono però, tutti alla però DJ, è l'ascoltatore, no? Di Radio DJ quando guida. Non poteva. Ma non possiamo esatto. L'ascoltatore medio di Radio 24. La passione si sente. Sentiamo la passione, com'è, si sente l'ascoltatore medio di Radio 24. Eccolo qua. Guida col giornale in mano. Però c'era la musica, stava ascoltando Gigi. Infatti salutiamo anche Gigi. No, il problema è che in realtà guidare col giornale in mano è pericoloso. Non guidate col giornale in mano. Non si deve, però ha beccato l'unica trasmissione con la musica di Radio 24. No, era la musica che accompagnava un po' di molto, sarà stato molto, chissà, molto chissà, carino. Chissà, io mi sono molto divertita. Com'è l'ascoltatore medio di Radio Tube? Non lo so, ho paura. Quello del sabato del villaggio lo so. Cioè, com'è? Oddio. Ma non lo dico la prossima puntata, no, per lasciare la suspense. Vabbè, te lo descrivo, faccio un video. Dai, fallo, lo ti prego. Faccio, l'ha detto che lo fa. Ricci neri, occhiali da hipster. Sì? L'ascoltatore medio del sabato del villaggio, occhiali da hipster, qualche disco in vinile sotto braccio, sì? In vinile, rigorosamente in vinile. Sì? Poi non lo so. Non Vabbè. Mi viene in mente. Allora, abbiamo ancora il tempo di festeggiare due signore. Sì. No, abbiamo il tempo di festeggiare due signore prima di salutare. Sì. No, ma intanto ne salutiamo una. Esatto, ne salutiamo una che saluta lo sport. Sì, ha detto che Valentina Vezzali, grandissima. Sai sì, che a me sì. C'è anche un debole di quelli ti quando tu dici un bel bagai. Ti piace la Vezzali? Che non si dice però per una femmina. C'è Bella Tusa. Bella Tusa. Una bella donna. Cioè, è una bella donna. Sì, molto bella donna. Poi simpatica, questo sorriso mette gioia. Sì, ma si ritira la Vezzali? Beh sì, si ritira, ha vinto abbastanza, è una schermidora, hai presente? Tu hai mai capito di schermi? Io niente. Esatto, io questo niente. È il problema. Che nessuno cioè, dei due apprezzo sa... l'eleganza del gesto. Del gesto, quando si tolgono, sì, a me piace quando bellissimi. Lo lanciano perché hanno vinto, via! Però questo... io non capisco chi ha il punto, neanche ogni tanto io. Si accende una luce e qualcuno è felice. Io non capisco nemmeno se è rosso o verde, chi ha fatto il... Vabbè, però... ma anche perché sono coperte, non si capisce però chi è. Però quando lanciano capisci che hanno vinto. Appunto la Vezzali c'è una scena mitica in cui lei si inginocchia dopo aver lanciato. Come ha salutato lo Come sport? Come ha salutato? Non lo so. Come ha salutato? Sentiamo. Lascio la pedana nella consapevolezza di aver dato tutto quello che potevo dare a questo affascinante sport e la certezza di aver ricevuto almeno altrettanto. Ma di una cosa sono certa, la scherma mi ha insegnato a battermi e a non mollare mai. Vabbè, ma mi vengono i lacrimoni. Vabbè, ma tenera. Tenerissima, pure troppo, diciamo. Ma vabbè, che cinico è che sei. È stato di Fioretto dai. Più che di Sciamo. No, non sono cinico. Com'è no, che in questo periodo parliamo di sportivi che si ritirano, non si ritirano, si ritirano. Dove vuoi non arrivare? No, è nel senso che abbiamo fatto Io una mi sono puntata ritirato sul anni fa, da qualunque sport. No, abbiamo fatto una puntata col basket, una puntata sì, col calcio. Adesso il Fioretto. Vedi, sai che sembra lei che abbiamo stata... un filo conduttore. Sì, un fil rouge. Allora, invece... sai che lei ha fatto la portabandiera alle ultime Olimpiadi, invece un'altra donna sarà la portabandiera a Rio. È grandissima fede nazionale. Abbiamo anche lei. Qua è più facile capire se uno vince. Eh beh sì, si arriva prima. Oddio, bisogna guardare proprio il millimetro, però viene subito fuori la bandierina. Eccola qua. Lo sport per me è sempre stata la mia vita, la mia grande passione. La mia carriera è stata fatta di alti e bassi, ma non solo sportivamente parlando. Quindi quello che vorrei portare a Rio, la voglia di combattere, qualsiasi cosa succeda nella vita o nello sport, ma la voglia di combattere, non arrendersi mai, qualsiasi cosa succeda. Ma ti piace anche la Pellegrini o ti piace solo la... Come diciamo tipo? Che era più scontato anche... Pellegrini. Però bello. Grande portabandiera, stupendo. Sì, il fatto sono molto contenta. Che sia lei è giustissimo. Perché sì, tra l'altro la cosa bella è che sarà il giorno del suo compleanno. Ah, ma non sapevo questo. 5 agosto lei sarà portabandiera e sarà anche il suo 28esimo compleanno. Bellissimo, tanti auguri in anticipo. Bello. Come fa l'ascoltatore di... Non si sa. Non possiamo no, più no, sentire. Ormai abbiamo sentito le abbiamo dopo giocati quello tutti. Di Radio 24, li abbiamo giocati tutti. Non della Radio Rai, molto. Non abbiamo parlato dell'ascoltatore. No, hanno fatto solo quelli dei network, anzi sfidiamo Lanciamo. Radio Speaker e Mattes a continuare. È stato molto molto molto carino. Allora, beh. Noi salutiamo tutti, @MartaCagnola, @DiBellasio, gli hashtag li sapete, ISDV, Radio Tube, il podcast tra pochissimo sul sito di Radio 24. Ringraziamo. Christian Goldoni. Sì, mitico. Che senza di lui non si può andare in onda. Ringraziamo Andrea Roccabella. Sì. E noi ci troviamo sabato prossimo. Alle 15 per il sabato del villaggio e alle 17 per noi, RadioTube, l'ora quella che ti rovino. Alla prossima puntata.